Un paio di settimane fa era un seminario per l'esperienza del Cursiglio. Se non conoscete questa esperienza spirituale, cercate un po' su internet, magari può essere presente nella vostra diocesi. Se avete il desiderio di fare un'esperienza spirituale molto intensa e trasformante, potrebbe proprio essere la scelta giusta. Era tardi, eravamo saliti nelle camere da poco e mi preparavo per andare a dormire e sentivo che due persone parlavano in corridoio. Non che parlassero a voce alta, tutt'altro. Il problema è che i corridoi del seminario di Genova sono altissimi, per cui anche se una persona parla a bassa voce, il rimbombo si sente, si estende lungo tutto il corridoio. Al che ho pensato, adesso esco e gli dico se per favore la smettono di parlare perché ho proprio voglia di riposare. È stato un attimo, un flash, mi sono reso conto che quella situazione l'avevo già vissuta migliaia di volte. Quando ero in seminario a studiare teologia, poteva succedere diverse volte che qualcuno si fermasse a parlare oltre all'orario permesso, a parlare in corridoio, anche perché, diciamo la verità, la campanella del silenzio suonava alle 21:15, per cui ci può anche stare che uno abbia voglia ancora di fare due parole a quell'ora. In quel momento però non ho rivissuto soltanto quella situazione, ma anche le emozioni, le sensazioni interiori che l'accompagnavano. Un senso forte di rabbia per il desiderio di dormire e l'impossibilità di farlo a causa di coloro che rimanevano ancora a parlare in corridoio. In quei casi mi sembrava che fossero due le scelte possibili: o rimanere in camera, tenermi la mia rabbia e starmene zitto aspettando che finalmente finissero di parlare, oppure uscire fuori e dirgliene quattro. E dirgliene quattro in quegli anni per me significava uscire fuori e con molta forza dire: ragazzi, adesso basta, voglio dormire, è suonata l'ora del silenzio. Il che significava in fondo ricordargli che erano fuori regola, perché era già suonata la campanella delle 21:15 e loro non stavano osservando il silenzio del seminario. Insomma, era una specie di accusa in fondo: guardate che non state seguendo le regole. E si sa poi che quando uno si sente accusato gli viene a sua volta di difendersi e magari di accusare a sua volta: ma vai, lascia perdere, che anche te lo fai un sacco di volte. Gliene dico quattro, ecco il punto, perché il punto è proprio questo: quando noi proviamo rabbia significa che dentro di noi c'è un bisogno che sentiamo che non è soddisfatto in quel momento. E allora pensiamo che le alternative siano due: o esprimere la rabbia oppure reprimere la rabbia. Marshall Rosenberg ripeteva stesso che fin da bambini siamo stati abituati ad un linguaggio, ad una comunicazione violenta, una comunicazione in cui per far valere i nostri diritti, per esprimere i nostri bisogni, ci si serve della violenza, spesso soltanto verbale, e proprio per far valere i propri diritti ed esprimere i propri bisogni. Ma possibile che tutti noi cresciamo senza che ci sia qualcuno che ci faccia sperimentare, ci faccia capire che può esistere un modo non violento di esprimere i propri bisogni? A quel punto, l'altra sera, non 20 anni prima, quando sicuramente se uscivo fuori era per esprimere la rabbia in modo violento, a quel punto ho fatto un respiro e ho pensato: no, deve esserci una terza via per esprimere i bisogni in modo non violento. Allora ho pensato: aspetto ancora 5 minuti e se sento che ancora parlano, esco fuori e magari gli dico così: ragazzi, scusatemi, sono abbastanza stanco e avrei bisogno di dormire. In questi corridoi, quando si parla, anche due semplici parole rimbombono e si sentono in tutte le camere. Se avete ancora bisogno di dirvi qualcosa, potete per favore entrare in una camera, così potete continuare tranquillamente il vostro discorso. Vi ringrazio, buonanotte. Cosa cambia tra questo tipo di comunicazione e quello che ho messo tantissime volte in pratica quando ero in seminario? Primo, mi sembra innanzitutto che detta a questo modo non si tratti di un attacco. Secondo, ho espresso un mio bisogno e penso che sia difficile che quando noi esprimiamo un nostro bisogno, l'altro ci dica no, non mi interessa niente del tuo bisogno. Terzo, detta così, mi sembra che non ci sia un richiamo ad una regola astratta, un principio universale di fronte alla quale si può essere in regola oppure no, e quindi implicitamente si sta accusando una persona, ma semplicemente si esprime un proprio bisogno e si suggerisce anche una soluzione che tenga conto del bisogno dell'altro, cioè del bisogno di continuare a scambiarsi due parole. Quarto, forse detta in questo modo farò anche implicitamente capire all'altro che se effettivamente c'è una regola, non si tratta di una regola arbitraria, ma di una regola che serve per venire incontro al bisogno di ciascuno. Dopo che ho finito di fare questi pensieri sono ritornato alla realtà e mi sono reso conto che non c'era più bisogno neanche di uscire perché le due persone nel frattempo erano andate in camera. Ecco dunque il compito della settimana: quando senti che dentro di te c'è un bisogno non soddisfatto e questo fa nascere in te la rabbia, non pensare che esistano soltanto due alternative, esprimere la rabbia oppure reprimere la rabbia, ma prova a trovare una terza via, un modo di esprimere il tuo bisogno in modo non violento. Se ti viene in mente qualche esempio, lascialo scritto nei commenti e mi raccomando, iscriviti al canale attivando la campanella e condividi questo video se ti è piaciuto e pensi che altre persone ne possano trarre un qualche giovamento. E ti ricordo che c'è anche un altro modo per non perdere nessun aggiornamento: vai sul sito www.comunicaresorrisodidio.it, clicca su iscriviti e lascia il tuo indirizzo email. Riceverai ogni settimana un'email con il riepilogo del video della settimana.